Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Vivevano grandi uomini, giganti, dei. Un tempo ormai remoto. Fu qui che conobbi il mio signore. Non fu un caso, e non è per pura casualità che io sono il narratore di questo racconto. Il Dio nell'urna. La sentinella Arus impugnò la balestra con mani tremanti e avvertì viscide gocce di sudore scorrergli sulla pelle alla vista poco attraente del cadavere che giaceva scomposto sul levigato pavimento di fronte a lui. Non è piacevole inciampare nella morte a mezzanotte e in un luogo solitario. La sentinella si trovava in un vasto corridoio illuminato da grosse candele poste in apposite nicchie lungo i muri. Tra l'una e l'altra nicchia, i muri erano coperti di tendaggi di velluto nero, intramezzati da scudi e panoplie di fantastica fattura. Qua e là, inoltre, c'erano i simulacri di bizzarre divinità. Figure scolpite in pietra o in legno raro, o fuse nel bronzo, nel ferro o nell'argento, che si rispecchiavano debolmente nel lucido pavimento nero. Arus rabbrividì. Non si era ancora abituato a quel posto, sebbene vi prestasse servizio di guardia già da qualche mese. Era un edificio fantastico, un grande museo e negozio di antiquariato che la gente chiamava Tempio di Publio Calliano, pieno di curiosità provenienti da tutto il mondo. Ora, nella solitudine della mezzanotte, Arus era fermo nel grande corridoio silenzioso e fissava, steso sul pavimento, il cadavere di quello che era stato il ricco e potente proprietario del tempio. Persino la mente torpida della guardia si accorse che l'uomo sembrava stranamente diverso ora rispetto al tempo in cui passeggiava nella via Paliana sul suo cocchio dorato, arrogante e dominatore, con gli occhi neri che mandavano lampi di vitalità magnetica. La gente che lo aveva avuto in odio difficilmente avrebbe riconosciuto Publio Calliano nel disfatto mucchio di grasso che giaceva al suolo, con il ricco abito mezzo strappato via dal corpo e la tunica purpurea gettata di traverso. La faccia era annerita, gli occhi sporgevano dalla testa e la lingua ciondolava dalla bocca spalancata. Le sue grasse mani erano rivolte in alto in un gesto curiosamente futile. Delle gemme brillavano sulle tozze dita. «Perché non si sono presi gli anelli?» mormorò la sentinella inquieta. Poi si immobilizzò, con gli occhi sgranati e i capelli ritti sulla nuca, perché dal nero arazzo di seta che mascherava una delle tante porte che si aprivano sul corridoio, stava avanzando una figura. Arus vide un giovane alto, di corporatura possente, vestito solo di una fascia che gli cingeva i fianchi e di calzari legati in alto sopra la caviglia. La pelle era bruna come se fosse stata bruciata dal sole dei deserti, e Arus lanciò un'occhiata nervosa alle ampie spalle, al torace massiccio e alle forti braccia. Una sola occhiata ai lineamenti severi e alle spesse sopracciglia gli bastò per capire che l'uomo non era un nemediano. Sotto il ciuffo arruffato di capelli neri covavano due pericolosi occhi azzurri. Una lunga spada chiusa in un fodero di cuoio gli pendeva dalla cintura. Arus si sentì accapponare la pelle, impugnò ancora più saldamente la balestra con una mezza idea di indirizzare senza preavviso un dardo verso lo straniero. Ma non lo fece, per timore di quel che sarebbe potuto accadere se non fosse riuscito a dargli la morte al primo colpo. Il forestiero guardò, più incuriosito che sorpreso, il corpo steso al suolo. Perché l'hai ucciso? Chiese nervosamente Arus. L'altro scosse la testa arruffata. Non l'ho ucciso io, rispose parlandone mediano con accento barbaro. Chi è? Publio Calliano, rispose Arus indietreggiando lentamente. Un fremito di interesse comparve nei severi occhi azzurri. Il proprietario della casa? Sì! Arus si era fatto strada sino al muro. Afferrò uno spesso cordone di velluto e lo scosse violentemente. Fuori, nella via, risuonò il clangore della campana appesa davanti a tutti i negozi e ai palazzi per far accorrere la ronda in caso di bisogno. Lo straniero trasalì. «Perché l'hai fatto?» chiese. «Farà accorrere l'uomo di guardia!» «Io sono l'uomo di guardia, furfante!» rispose Arus, ritrovando il suo coraggio. «Stai dove sei! Non muoverti o lascio partire un colpo!» Le dita toccarono il grilletto della balestra. La maligna testa quadrata del dardo era puntata proprio in direzione del petto ampio dell'altro. Lo straniero aggrottò le sopracciglia e abbassò la faccia rabbuiata. Non mostrava alcuna paura, ma sembrava esitare tra l'ubbidire al comando e il tentare la fuga. Arus si ummettò le labbra e sentì il sangue raggelarsi mentre osservava gli occhi offuscati dello straniero, combattuto tra la prudenza e il desiderio di uccidere. Poi sentì il fracasso di una porta che veniva aperta e un guazzabuglio di voci e lanciò un profondo sospiro di meraviglia e di sollievo. Lo straniero si irrigidì e fissò, con lo sguardo allarmato e inquieto di un animale preso in trappola, la mezza dozzina di uomini che stavano entrando nel corridoio. Tutti, salvo uno, indossavano la tunica scarlatta della polizia di Numalia. Avevano daghe e portavano le alabarde, armi dai lunghi manici, mezzo picche e mezzo asce. «Che cosa diavolo succede?» esclamò l'uomo più vicino, i cui freddi occhi grigi e i lineamenti magri e affilati, nonché gli abiti civili, lo distinguevano dai nerboruti compagni. «Per Mitra, Demetrio!» esclamò Arus. «La fortuna mi arride questa notte! Non speravo che la ronda rispondesse così in fretta all'allarme o che tu ti trovassi con essa!» «Stavo facendo un'ispezione con Dionus!» rispose Demetrio. «Stavamo passando davanti al tempio quando la campana ha suonato!» «Ma cos'è successo? Ishtar! Il padrone del tempio! Proprio lui!» rispose Arus. «Barbaramente assassinato! La notte è mio compito ispezionare tutto l'edificio più volte, dato che, come sai, c'è un'immensa fortuna accumulata qui. Publio Calliano aveva ricchi clienti, letterati, principi e doviziosi collezionisti di rarità. Bene, appena qualche minuto fa ho controllato la porta che dà sul portico e l'ho trovata chiusa solo a chiave, senza lucchetto. La porta è provvista di una serratura su ciascun lato e di un robusto lucchetto che non può essere fatto scattare che dall'esterno. Solo Publio Calliano ne possedeva la chiave, proprio quella che pende dalla sua cintura. Ho capito che qualcosa non andava, perché Calliano chiudeva sempre col lucchetto la porta quando lasciava il tempio e io non l'avevo più visto da quando all'imbrunire si era diretto verso la sua villa fuori della città. Ho aperto la porta, sono entrato e ho trovato il corpo proprio dove sta adesso. Non l'ho toccato!» «Capisco!» Gli occhi acuti di Demetrio esaminarono il fosco straniero. «E chi è questo?» «L'assassino, senza dubbio!» gridò Arus. «È entrato per quella porta! È un barbaro del nord, di non so che razza, forse un iperboreano o un bassoniano!» «Chi sei?» chiese Demetrio. «Sono Conan, un cimmero!» rispose il barbaro. «Hai ucciso quest'uomo?» Il cimmero scosse la testa. «Rispondimi!» scattò l'inquisitore. Uno sguardo iroso comparve nei torvi occhi azzurri. «Non sono un cane per essere interpellato così!» «Ah, l'insolente!» sogghignò un compagno di Demetrio, un omone che portava le insegne di prefetto di polizia. «Un tagliagole che non vuole essere servo di nessuno! Gli farò sputare quest'impudenza! Tu parla, perché l'hai ucciso?» «Un momento, Dionus!» ordinò Demetrio. Ragazzo, io sono il capo del concilio d'inquisizione della città di Numalia. Devi spiegarmi nel modo migliore perché sei qui, e se non sei l'assassino, dimostramelo! Il cimmero esitò. Non mostrò alcuna paura, ma piuttosto il leggero smarrimento che un barbaro prova quando è messo a confronto con la complessità dei sistemi civili, il cui operare è sconcertante e misterioso per lui. «Mentre ci pensa sopra», pronunciò Demetrio a voce alta volgendosi verso Arus, «dimmi, hai visto Publio Calliano lasciare il tempio questa sera?» «No, mio signore, ma in genere lui non c'è più quando io arrivo per il mio turno di guardia. La porta era chiusa con la chiave e il lucchetto». «Può essere entrato nell'edificio senza che tu lo abbia visto?» «Sì, è possibile, ma poco probabile. Se fosse ritornato dalla villa sarebbe venuto con il suo cocchio, perché la strada è lunga e chi non ha mai visto Publio Calliano viaggiare in altro modo? E io, anche se mi fossi trovato sull'altro lato del tempio, avrei sentito il rumore delle ruote del cocchio sull'acciottolato. Invece non ho sentito niente del genere». «E la porta era chiusa col lucchetto prima di allora, questa notte?» «Giurerei di sì. Provo tutte le porte parecchie volte durante la notte. La porta era chiusa dall'esterno sino a circa un'ora fa, cioè fino all'ultima volta». Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. In cui l'ho provato prima di scoprirla aperta. Non hai sentito urla o rumori di lotta? No, signore, ma ciò non è strano, poiché i muri del tempio sono così spessi che nessun suono può attraversarli. Perché darsi il fastidio di fare tante domande, tante congetture? Si lamentò il massiccio prefetto di Onus. Il nostro colpevole è qui, senza alcun dubbio. Lascia che lo porti alla corte di giustizia. Gli strapperò una confessione anche se dovessi ridurgli le ossa in poltiglia. Demetrio guardò il barbaro. Capisci quello che dice? Chiese. Che cosa hai da dire? Che se qualcuno osa toccarmi, andrà a raggiungere i suoi antenati all'inferno, disse il cimmero, digrignando i denti e con gli occhi che mandavano scintille. Perché sei venuto qui se non a uccidere quest'uomo? Sono venuto a rubare, rispose astiosamente l'altro. A rubare che cosa? Conan esitò. Cibo. Questa è una bugia, rispose Demetrio. Lo sai che non c'è cibo qui. Dimmi la verità o... Il cimmero posò la mano sull'elsa della spada, un gesto carico di minaccia, come quello di una tigre che apre le labbra e snuda le zanne. Risparmia la tua boria per i codardi che hanno paura di te, urlò. Non sono un nemediano sempre vissuto in città che piega la schiena di fronte ai cani che stanno al tuo servizio. Ho ucciso uomini migliori di te per meno di questo. Dionus, che aveva aperto la bocca per ruggire incollerito, la richiuse. Le guardie armeggiavano incerte con le alabarde e scrutavano Demetrio aspettando un comando. Mute per lo stupore di veder così sfidata la loro potente polizia, aspettavano l'ordine di afferrare il barbaro. Ma Demetrio non lo diede. Arus lanciava occhiate dall'uno all'altro, chiedendosi che cosa passasse nell'acuto cervello di Demetrio dietro a quella sua faccia da sparviero. Forse il magistrato temeva di risvegliare la barbara frenesia del cimmero, o forse c'era un onesto dubbio nella sua mente. «Non ti ho accusato di aver ucciso Calliano», scattò. «Ma devi ammettere che le apparenze sono contro di te. Come sei entrato nel tempio?» «Mi sono celato dietro questo edificio nei magazzini», rispose Conan a malincuore. «Quando questo cane...» e allungò un dito verso Arus... «Mi sorpassò svoltando l'angolo. Corsi verso il muro e scalai...» «Bugia!» proruppe Arus. «Nessun uomo potrebbe arrampicarsi sul muro così ripido!» «Hai mai visto un cimmero scalare una scogliera a strapiombo?» chiese Demetrio. «Sono io che conduco questa inchiesta. Continua, Conan!» «L'angolo è decorato di sculture», disse il cimmero. «È stato facile salire. Ho raggiunto il tetto prima che questo cane rifacesse il giro dell'edificio. Ho trovato una botola, chiusa da una chiavarda di ferro che l'attraversava tutta ed era serrata dall'interno. Ho rotto la chiavarda in due pezzi. Arus, ricordando lo spessore della chiavarda, rimase senza fiato e si scostò dal barbaro, che gli rivolse uno sguardo torvo e distratto, e continuò. «Mi sono calato attraverso la botola e sono entrato in una stanza dei piani superiori, ma non mi sono fermato lassù e ho tirato dritto verso la scala». «Come sapevi dov'era la scala? Solo i servi di Cagliano e i suoi ricchi clienti erano ammessi nelle stanze superiori». Conan si chiuse in un ostinato silenzio. «Cosa hai fatto dopo aver raggiunto la scala?» domandò Demetrio. «Sono sceso», mormorò il cimmero. «Sono arrivato nella camera che sta dietro la porta coperta dall'arazzo. Mentre scendevo le scale, ho sentito aprirsi un'altra porta. Guardando attraverso gli arazzi, ho visto questo cane accanto al morto». «Perché sei uscito dal tuo nascondiglio?» «Perché a tutta prima l'ho creduto un ladro venuto a rubare la...» Il cimmero si interruppe. «La stessa cosa che eri venuto a rubare tu», finì Demetrio. «Non hai indugiato nelle stanze di sopra, dove sono tenuti i beni più preziosi. Sei stato mandato qui da qualcuno che conosce bene il tempio per rubare qualche oggetto particolare». «E uccidere Publio Cagliano!» esclamò Dionus. «Per Mitra! È lui! Afferratelo, uomini! Avremo la sua confessione prima di domani mattina!» Con un'imprecazione sconosciuta, Conan saltò indietro, sguainando la spada con tale rabbia da far ronzare la lama sottile. «Indietro, se vi premono le vostre vite di cani!» ringhiò. «Poiché avete il coraggio di torturare i bottegai e di spogliare e battere prostitute per farle parlare, non crediate di mettere le vostre grasse zampe su un uomo dei monti del nord! Fa attenzione con quella balestra, guardia, o ti spacco le budella!» «Aspettate!» disse Demetrio. «Ferma i tuoi uomini, Dionus! Non sono ancora convinto che sia lui l'assassino!» Demetrio si chinò verso Dionus e gli bisbigliò qualcosa. Arus non riuscì a udire le parole, ma pensò che fosse un trucco per privare Conan della sua spada. «Molto bene!» grugnì Dionus. «Indietreggiate, uomini! Ma tenetelo d'occhio!» «Dammi la spada!» disse Demetrio a Conan. «Prendila, se ci riesci!» gridò Conan. L'inquisitore scrollò le spalle. «Va bene, ma non cercare di scappare. Uomini armati di balestra fanno la guardia fuori della casa». Il barbaro abbassò la lama, ma non rilassò la sua attenzione piena di tensione. Demetrio si voltò di nuovo verso il cadavere. «Strangolato», mormorò. «Perché strangolarlo, visto che un colpo di spada è più veloce e più sicuro? Questi cimmeri nascono con la spada in mano, per così dire. Non ho mai sentito dire che abbiano ucciso un uomo in questo modo». «Forse per stornare i sospetti», disse Dionus. «Possibile». Demetrio tastò il corpo con mano esperta. «Morto da almeno mezz'ora. Se Conan dice la verità sul suo arrivo nel tempio, non può averlo ucciso prima che Arus arrivasse. Però potrebbe mentire, potrebbe essere arrivato prima». «Ho scalato il muro dopo che Arus ha fatto l'ultima ronda», ringhiò Conan. «Così tu dici». Demetrio fissò pensosamente la gola dell'uomo, che era stato ridotta a una poltiglia di carne violacea. La testa pendeva dalle vertebre maciullate. Demetrio scosse il capo perplesso. «Perché un assassino dovrebbe usare una corda spessa più del braccio di un uomo? E quale terribile stretta può avergli fracassato il collo in questo modo?» Si alzò in piedi e si diresse alla più vicina porta che dava sul corridoio. «Qui c'è un busto che è stato buttato giù dal piedistallo, vicino alla porta», disse. «E il pavimento è graffiato e i tendaggi che coprono la porta sono in disordine. Publio Cagliano deve essere stato assalito in questa stanza. Forse è riuscito a divincolarsi dal suo assalitore o lo ha trascinato con sé mentre fuggiva. Ad ogni modo è giunto barcollando nel corridoio e qui l'assassino lo ha seguito e l'ha finito». «E se questo miscredente non è l'assassino, allora l'assassino dov'è?» domandò il prefetto. «Non ho ancora discolpato il cimbero», disse l'inquisitore. «Ma ora ispezioniamo questa camera». Si fermò bruscamente, girandosi ad ascoltare. Dalla strada proveniva il rumore delle ruote di un carro. Il suono si avvicinò per cessare poi improvvisamente. «Dionus!» latrò l'inquisitore. «Manda due uomini a cercare quel carro e fai portare qui il conducente!» Dal suono!» disse Arus, che conosceva tutti i rumori della strada. «Direi che si è fermato di fronte alla casa di Promero, sul lato opposto al negozio del mercante di seta!» «Chi è Promero?» chiese Demetrio. «Il capo degli scrivani di Publio Cagliano!» «Portatelo qui insieme con il conducente!» disse Demetrio. Due guardie corsero via. Demetrio continuava a studiare il cadavere. Dionus, Arus e le guardie rimaste tenevano d'occhio Conan, che con la spada in mano stava immobile come una minacciosa figura di bronzo. In quel momento uno scalpiccio echeggiò all'esterno e le due sentinelle fecero ritorno con un uomo, bruno di pelle e di corporatura possente, che portava l'elmo di cuoio e la lunga tunica degli aurighi e aveva in mano una frusta. Con loro c'era anche un piccolo individuo dallo sguardo timoroso, appartenente senza dubbio a quella categoria di persone che, elevatesi dai ranghi degli artigiani, diventavano gli uomini di fiducia dei ricchi mercanti. Il piccolo uomo indietreggiò con un grido dalla massa distesa al suolo. «Oh, lo sapevo che non ne sarebbe venuto che del male!» disse in tono lamentoso. Demetrio fece. «Tu sei Promero, il capo degli scrivani, suppongo. E tu?» «Enaro, cocchiere di Publio Calliano.» «Non mi sembri turbato alla vista del suo cadavere», osservò Demetrio. I bruni occhi scintillarono. «Perché dovrei essere turbato? Qualcuno ha fatto una cosa che avrei voluto fare da tempo io stesso, ma non osavo fare!» «Ah!» mormorò l'inquisitore. «Sei un uomo libero!» Gli occhi di Enaro si fecero amari quando scostò la tunica per mostrare il marchio dello schiavo per debiti, impresso sulla sua spalla. «Sapevi che il tuo padrone doveva venire qui questa notte?» «No! Come al solito, questa sera ho portato il carro al tempio! Lui è salito su e io mi sono diretto verso la villa. Però prima che arrivassimo sulla via Palliana mi ha ordinato di girare e di riportarlo indietro. Sembrava molto agitato.» «E l'hai riportato al tempio?» «No, mi ordinò di fermare davanti alla casa di Promero. Là mi congedò ordinandomi di ritornare a prenderlo non appena passata la mezzanotte.» «Che ora era?» Appena dopo il crepuscolo. Le strade erano quasi deserte.» «Che cosa hai fatto dopo?» «Sono tornato al quartiere degli schiavi e vi sono rimasto fino all'ora di andare alla casa di Promero. Poi sono andato direttamente là e i vostri uomini mi hanno afferrato mentre parlavo con Promero fuori della porta.» «Hai qualche idea sul motivo che ha indotto Calliano a recarsi alla casa di Promero?» «Non parlava mai dei suoi affari con gli schiavi.» Demetrio si voltò verso Promero. «E tu che ne sai?» «Niente!» I denti dello scrivano battevano mentre parlava. «Publio Calliano è venuto a casa tua, come afferma il cocchiere?» «Sì, signore.» «Quanto tempo si è fermato?» «Solo un attimo, poi è uscito.» «E si è diretto al tempio?» «Non lo so.» La voce dello scrivano era stridula. «Perché è venuto a casa tua?» Per parlare di affari con me.» «Menti!» disse Demetrio. «Perché è venuto a casa tua?» «Non lo so, non so nulla!» La voce di Promero stava diventando isterica. «Non ho nulla a che fare con...» «Fallo parlare, Dionus!» sbottò Demetrio. Dionus grugnì e fece un cenno a uno dei suoi uomini, che con una smorfia selvaggia si mosse verso i due prigionieri. «Sai chi sono?» urlò chinando la testa in avanti e fissando la vittima che cercava di sottrarsi a lui. «Sei postumo!» rispose con terrore lo scrivano. Hai strappato un occhio a una ragazza nella corte di giustizia perché non voleva incriminare il suo amante!» «Ottengo sempre quello che voglio!» tuonò la guardia. Le vene del collo gli si gonfiarono e la faccia diventò di porpora mentre afferrava il disgraziato scrivano per il collare della tunica e glielo torceva fino quasi a strangolarlo. «Parla, topo!» ringhiò. «Rispondi all'inquisitore!» «Oh, Mitra, pietà!» urlava l'infelice. «Giuro che non...» Postumo lo schiaffeggiò, prima sull'una e poi sull'altra guancia, quindi lo scagliò al suolo e lo prese a calci con malignità e precisione. «Pietà!» gemette ancora la vittima. «Parlerò!» «Alzati allora, maledetto!» ruggì Postumo. «Non startene lì con i tuoi lamenti!» Dionus lanciò una rapida occhiata a Conan per vedere se fosse debitamente impressionato dalla scena. «Vedi che cosa succede a quelli che si oppongono alla polizia?» disse. Conan sbuffò in segno di disprezzo. «Ah, è un debole, è un idiota!» grugnì. «Che soltanto qualcuno mi tocchi e le sue budella finiranno sul pavimento!» Sei pronto a parlare? Chiese tediosamente Demetrio. Tutto quello che so! Singhiozzò lo scrivano mentre si rimetteva in piedi, piagnucolando come un cane abbattuto. Che Galliano è venuto a casa mia poco dopo che io ero arrivato! Aveva lasciato il tempio insieme a lui e ha mandato via il cocchio! Ha minacciato di licenziarmi se ne avessi mai parlato! Sono un povero uomo, signori, privo di amici e di privilegi! Senza il suo lavoro qui morirei di fame! Questo non ci interessa, disse Demetrio. Quanto tempo è rimasto in casa tua? Forse fino a mezz'ora prima di mezzanotte. Poi è uscito dicendo che andava al tempio e che sarebbe ritornato dopo aver fatto quello che doveva fare. E che cosa intendeva fare? Promero esitò, ma un'occhiata tremebonda al sogghignante postumo che stava serrando l'enorme pugno gli aprì immediatamente la bocca. Nel tempio c'era qualcosa che voleva esaminare. Ma perché venire da solo e in tale segretezza? Perché non era una cosa di sua proprietà. Era arrivata all'alba con una carovana proveniente dal sud. Gli uomini della carovana non ne sapevano nulla, salvo il fatto che era stata loro affidata dagli uomini di una carovana della Stigia e che era destinata a Carantes di Anumar, sacerdote di Ibis. Il capo carovana era stato pagato dai carovanieri della Stigia per consegnarla direttamente a Carantes, ma quel furfante desiderava proseguire direttamente per Aquilonia, passando da una strada che non attraversa Anumar. Così chiese al padrone se poteva lasciarla nel tempio finché Carantes non avesse mandato qualcuno a prenderla. Galliano acconsentì e gli disse che avrebbe mandato lui stesso un servo ad avvertire Carantes. Dopo che l'uomo se ne fu andato, io gli ricordai di mandarlo. Ma Galliano mi vietò di inviarlo. Continuava a pensare all'oggetto che gli avevano lasciato. E di che cosa si trattava? Una sorta di sarcofago, simile a quelli che si possono trovare nelle antiche tombe stigiane. Ma era rotondo, come un vaso di metallo chiuso da un coperchio. Sembrava fatto di rame, ma di una lega più dura. E sulla sua superficie erano incisi geroglifici, come sugli antichi menhir della Stigia meridionale. Il coperchio era fissato al sarcofago con strisce di metallo istoriato che sembrava rame. Che cosa conteneva? Gli uomini della carovana non lo sapevano. Dicevano soltanto che la persona che lo aveva consegnato loro sosteneva si trattasse di una reliquia di inestimabile valore trovata tra le tombe, molto al di sotto delle piramidi, e che lo mandava a Carantes per l'amore che portava al sacerdote di Ibis. Publio Galliano credeva che il sarcofago contenesse il diadema dei re di giganti del popolo che abitava in quelle terre tenebrose prima che giungessero gli antenati degli stigiani. Mi mostrò un disegno inciso sul coperchio, giurando che aveva la forma del diadema e che secondo la leggenda quei mostruosi re portavano. Decise di aprire l'urna per vedere cosa conteneva. Era come pazzo al pensiero di quel favoloso diadema, tempestato di strani gioielli noti solo all'antica razza, ognuno dei quali valeva più di tutti i gioielli del mondo moderno messi assieme. E io lo avvertii di non farlo, ma poco prima della mezzanotte andò da solo al tempio, nascondendosi nell'ombra fino a che la sentinella non giunse dall'altro lato dell'edificio. Poi entrò con la chiave che porta alla cittura. Lo spiai dalle ombre del negozio di sete fino a che non fu entrato, e poi rientrai in casa. Se avesse trovato il diadema o qualche altro oggetto di grande valore, intendeva nasconderlo da qualche parte nel tempio e andarsene via silenziosamente come era venuto. Poi domani avrebbe dato l'allarme dicendo che i ladri erano penetrati nel tempio e avevano rubato l'oggetto di proprietà di Carantes. Nessuno sarebbe stato a conoscenza delle sue azioni della sera prima, salvo il cocchiere ed io, e noi non l'avremmo tradito. E l'uomo di guardia? Obiettò Demetrio. Galliano non intendeva essere visto da lui, pensava di farlo crocifiggere come complice dei ladri, rispose Promero. Arus trangugiò a vuoto e impallidì quando comprese la doppiezza del suo padrone. Dov'è il sarcofago? Chiese Demetrio. Promero puntò il dito e l'inquisitore grugnì. Già, proprio la stanza in cui Galliano deve essere stato assalito. Promero si torceva le magre dita. Perché un uomo della Stigia dovrebbe mandare un dono a Carantes? Antichi dei e strane mummie hanno già percorso le strade carovaniere, ma chi mai può amare il sacerdote di Ibis nella Stigia, dove adorano ancora l'arcidiavolo Set, il dio serpente, che si avvolge tra le tombe nelle tenebre? Il dio Ibis ha combattuto Set fin dalla prima alba della Terra e Carantes ha combattuto i sacerdoti di Set per tutta la sua vita. C'è un aspetto oscuro e misterioso in tutta la cosa. «Mostraci il sarcofago!» ordinò Demetrio e Promero, esitante, fece strada. Lo seguirono tutti, compreso Conan, che apparentemente incurante degli sguardi diffidenti che le guardie tenevano su di lui, sembrava semplicemente incuriosito. Oltrepassarono i tendaggi lacerati ed entrarono nella stanza, che era illuminata più fioccamente del corridoio. Alcune porte davano in altre stanze e sulle pareti erano allineate fantastiche immagini, dei di strane terre e di lontani popoli. Promero lanciò un urlo acuto. «Guardate! Il sarcofago è aperto e vuoto!» Al centro stava uno strano cilindro nero, alto meno di 1,5 metri e del diametro di circa 1 metro nel suo punto più largo, a metà altezza. Il pesante coperchio istoriato giaceva a terra e accanto ad esso stavano un martello e uno scalpello. Demetrio guardò nell'interno, fissò perplesso i tenui geroglifici e si voltò verso Conan. «Questo è ciò che sei venuto a rubare!» Il barbaro scosse la testa. «Come potrebbe portarlo via un solo uomo?» «Le strisce di rame sono state tagliate con lo scalpello», rifletté Demetrio, «e con molta fretta. Ci sono segni di colpi di martello andati a vuoto che hanno intaccato il metallo. Possiamo dare per assodato che l'abbia aperta Calliano. Qualcuno era nascosto vicino, forse tra i tendaggi sulla porta. Quando Calliano aprì l'urna, l'assassino lo colpì. O forse uccise Calliano e poi l'aprì lui stesso». «È una reliquia spaventosa», rabbrividì lo scrivano. «È troppo antica per essere sacra. Chi ha mai visto un metallo simile? Sembra più duro dell'acciaio aquiloniano. Eppure guardate com'è corroso in vari punti. E guardate qui sul coperchio». Promero puntò un dito tremante. Cosa direste che sia?» Demetrio si chinò sull'incisione. «Mi sembra rappresenti una specie di corona», brontolò. «No!» esclamò Promero. «Io avvertì Calliano, ma lui non volle credermi. È un serpente con la coda in bocca. È il segno di Set, il vecchio serpente, il dio degli stigiani. Questo sarcofago è troppo vecchio per appartenere a un mondo umano. È una reliquia del tempo in cui Set camminava sulla terra in forma di uomo. Forse la razza scaturita dai suoi lombi soleva riporre le ossa dei propri re in urne come questa». «E intendi dire che quelle ossa marce si sono alzate, hanno strangolato Publio Calliano e sono fuggite via?» Non era un uomo l'essere che è stato posto a riposare in quest'urna», bisbigliò lo scrivano con occhi sbarrati. «Quale uomo potrebbe giacervi?» Demetrio imprecò. «Se non l'ha ucciso Conan, allora l'assassino si trova ancora nel palazzo. Dionus e Arus, restate qui con me insieme ai 3 prigionieri. Gli altri setaccino la casa. L'assassino, se si è allontanato prima che Arus trovasse il corpo, può essere fuggito solo per la via usata da Conan per entrare. E in tal caso il barbaro lo avrebbe visto, se dice la verità». «Non ho visto nessuno all'infuori di questo cane», brontolò Conan indicando Arus. «Certo che no, visto che sei tu l'assassino», disse Dionus. «Stiamo perdendo tempo, ma faremo la perquisizione per rispettare le formalità. E se non troveremo nessuno, ti prometto che brucerai. Ricorda la legge, mio Bruno selvaggio. Per l'omicidio di un artigiano si finisce alle miniere, per un commerciante si è impiccati. Per un gentiluomo si viene bruciati». Conan, come tutta risposta, digrignò i denti. Gli uomini cominciarono le loro ricerche. Quelli che erano rimasti nella stanza li sentivano andare su e giù, spostare oggetti, aprire porte e gridarsi ordini da una stanza all'altra. «Conan», disse Demetrio, «sai che cosa significa per te se non troviamo nessuno?» «Non l'ho ucciso», disse irosamente il cimmero. «Se avesse cercato di fermarmi, gli avrei spaccato il cranio, ma l'ho visto soltanto quando è stato trovato il cadavere». «Eppure qualcuno ti ha mandato qui a rubare», disse Demetrio. «E con il tuo silenzio incrimini te stesso anche dell'omicidio. Il semplice fatto che tu sia qui è sufficiente per mandarti alle miniere, che tu ammetta o no la tua colpevolezza. Se racconti tutto, forse puoi salvarti dal rogo». «Beh», rispose il barbaro riluttante, «sono venuto a rubare la coppa di diamante zamoriana. un uomo mi ha mandato la pianta del tempio, dicendomi dove avrei potuto trovarla. È in quella stanza, indicò Conan, in una nicchia nel pavimento sotto la statua di rame di un dio scemita. Dice la verità, disse Promero. Pensavo che soltanto una mezza dozzina di uomini al mondo conoscesse il segreto di quel nascondiglio. E se tu avessi preso la coppa, sogghignò Dionus, l'avresti davvero consegnata all'uomo che ti ha dato l'incarico? Di nuovo gli occhi roventi brillarono di risentimento. Non sono un cane, mormorò il barbaro. Mantengo la parola. Chi ti ha mandato qui? Chiese Demetrio. Ma Conan mantenne un astioso silenzio. Le guardie ritornarono alla spicciolata dall'ispezione. Non c'è nessun nascosto nella casa, dissero. Abbiamo rovistato dappertutto, abbiamo trovato la botola sul tetto, quella che è servita al barbaro per entrare, e la chiavarda spezzata in due. Se un uomo fosse fuggito dalla botola, sarebbe stato visto dalle nostre guardie, sempre che non se ne fosse andato prima del nostro arrivo. Inoltre, avrebbe dovuto ammassare dei mobili per raggiungere la botola dall'interno, e non c'è traccia di ciò. Ma non potrebbe essere uscito dalla porta principale poco prima che Arus arrivasse da questa parte dell'edificio? No, disse Demetrio, perché la porta era chiusa dall'interno e le uniche chiavi sono quella di Arus e l'altra che ancora pende dalla cintura di Publio Calliano. Un altro disse: credo di aver visto la fune usata dall'assassino. Dov'è, idiota? Esclamò Dionus. Nella camera accanto a questa, rispose la guardia. È una spessa corda nera avvolta sul capitello di una colonna di marmo. Non sono riuscito ad arrivarci. Li precedette in una stanza piena di statue di marmo e mostrò un'alta colonna. Poi si arrestò stupito. Non c'è più! Gridò. Non c'è mai stata! Sbuffò Dionus. Per Mitra, eppure c'era, avvolta intorno al capitello, proprio sopra quelle foglie scolpite. Lassù è molto buio e non ho potuto vedere bene, ma vi assicuro che c'era! Sei ubriaco, disse Demetrio voltandosi. Quel capitello è troppo alto perché un uomo possa arrivarci e nessuno sarebbe in grado di arrampicarsi su quella colonna levigata. Un cimmero sarebbe in grado di farlo, mormorò uno degli uomini. È possibile. Supponiamo che Conan abbia strangolato Calliano, abbiano dato il cavo attorno alla colonna, sia tornato nel corridoio e si sia nascosto nella stanza della scala. Però come avrebbe potuto togliere la corda dopo che l'hai vista? È con noi da quando Arus ha scoperto il corpo. No, vi dico che Conan non ha commesso questo delitto. Credo che il vero assassino abbia ammazzato Calliano per impossessarsi del contenuto dell'urna e ora lo sta certamente nascondendo in qualche segreto angolo del tempio. Se non lo troveremo, dovremo incolpare il barbaro per soddisfare la giustizia. Ma dov'è Promero? Erano ritornati verso il corpo immobile nel corridoio. Dionus urlò il nome di Promero, che uscì dalla stanza in cui c'era l'urna vuota. Tremava e la sua faccia era bianca. Che ti succede, uomo? Esclamò l'irritato Demetrio. Ho trovato un simbolo sul fondo dell'urna, disse Promero battendo i denti. Non un antico geroglifico, ma un simbolo appena inciso. Il segno di Tot-Amon, l'incantatore stigiano, il mortale nemico di Carantes. Deve aver trovato l'urna in qualche sinistra caverna al di sotto delle piramidi maledette. Gli dei dei tempi antichi non morivano come gli uomini. Cadevano in lunghi sonni e i loro adoratori li chiudevano in sarcofagi, così che nessuna mano estranea potesse interrompere il loro sonno. Tot-Amon ha mandato la morte a Carantes e la cupidigia di Calliano gli ha fatto scatenare questo orrore, che ora è nascosto da qualche parte qui vicino. Forse già adesso sta strisciando verso di noi. Idiota farfugliante, ruggì Demetrio colpendo pesantemente Promero sulla bocca. Beh, Demetrio, disse Dionus voltandosi verso l'inquisitore, non vedo altra soluzione che arrestare il barbaro. Il cimmero esclamò, fissando la porta di una camera vicino a quella delle statue. Per Crom! Guardate! Ho visto un movimento in quella stanza! Ho visto muoversi tendaggi! Qualcosa che attraversava rapidamente il pavimento come un'ombra nera! Bah! Grugnì Postumo. Abbiamo ispezionato la stanza! Il cimmero ha visto qualcosa! La voce di Promero strillava e gracchiava con isterica eccitazione. Questo un luogo è maledetto! Qualcosa è uscito dal sarcofago e ha ucciso Publio Galliano! Si è nascosto dove nessun uomo può celarsi e adesso è in agguato in quella camera! Mitra ci difenda dai poteri delle tenebre! Afferrò la manica di Dionus con dita che sembravano artigli. Cerca di nuovo in quella stanza, mio signore! Come il prefetto si fu liberato dalla stretta frenetica dell'uomo, Postumo disse: «Dovrai farlo tu stesso, scrivano!» Afferrando Promero per il collo e la cintura, spinse l'infelice, che urlava, verso la porta. Lì si fermò e lo scagliò nella stanza così violentemente che lo scrivano rovinò a terra e vi giacque mezzo stordito. «Basta!» brontolò Dionus, lanciando un'occhiata al silenzioso cimmero. Alzò una mano e la tensione si accumulò pericolosamente nell'aria, quando d'improvviso sopraggiunse un'interruzione. Un uomo di guardia entrò, trascinando con sé una snella figura di giovane riccamente vestito. «L'ho sorpreso mentre cercava di nascondersi nel retro del tempio!» disse la guardia col tono di chi si aspetta elogi. Invece ricevette delle ingiurie da fargli rizzare i capelli. «Lascia quel gentiluomo, maledetto idiota!» urlò il prefetto Dionus. «Non conosci Astrias Petanius, il nipote del governatore?» La sentinella si allontanò, avvilita, mentre il giovane debosciato di nobile nascita si rassettava schizzinosamente la manica ricamata. «Risparmiati pure le scuse, mio buon Dionus», pronunciò in tono affettato. «L'ha fatto per motivi di servizio, certo. Stavo ritornando da una festicciola che si è prolungata fino a tardi e facevo due passi per liberarmi il cervello dai fumi del vino. Ma che cosa è successo? Per Mitra, un omicidio?» «È un omicidio, mio signore!» rispose il prefetto. «Ma abbiamo un indiziato che, sebbene Demetrio paia avere dei dubbi, andrà certamente a rogo per questo delitto!» «Un bruto dall'aria veramente malvagia!» mormorò il giovane aristocratico. «Come si può dubitare della sua colpa? Mai vidi dei connotati così bassamente truci!» «Oh sì, li hai già visti, cane profumato!» gridò il cimmero. «Quando mi ha incaricato di rubare il calice zamoriano! Una festicciola, eh? Bah, mi stavi aspettando nell'ombra, in attesa che ti consegnassi il bottino! Non avrei mai rivelato il tuo nome se tu avessi parlato onestamente! Adesso spiega a questi cani che mi hai visto scalare il muro dopo che la sentinella ha compiuto l'ultima ronda, così capiranno che non ho avuto il tempo di uccidere questo grasso maiale prima che Arus entrasse e trovasse il corpo.» Demetrio lanciò un'occhiata ad Astrias, il quale non batte ciglio. «Se dice la verità, mio signore», disse l'inquisitore, «questo lo discolpa dall'assassinio e noi potremmo facilmente mettere a tacere la faccenda del tentativo di furto. Il cimmero merita 10 anni di miniera per scasso, ma basta che voi diciate una parola e noi faremo in modo che scappi e nessuno, salvo noi, saprà mai nulla. Capisco, non siete certamente voi il primo nobile che ricorre a questi mezzi per pagare i debiti di gioco e di altro, ma potete contare sulla nostra discrezione.» Conan guardò con espressione speranzosa il giovane nobile, ma Astrias scrollò le esili spalle e coprì uno sbadiglio con la delicata mano bianca. «Ah, non lo conosco», rispose. «È pazzo a sostenere che io gli abbia dato un simile incarico. Lasciate che paghi il fio. Ha la schiena robusta e il lavoro delle miniere è quello che ci vuole per lui.» Conan, con occhi che mandavano faville, sobbalzò come se fosse stato colpito da un pungolo. Le guardie strinsero le alabarde. Poi si rilassarono quando gli videro chinare il capo con tetra rassegnazione. Arus non poteva dire se il barbaro li stesse studiando da sotto le spesse sopracciglia nere. Il cimmero non diede più preavvisi di un cobra che scatta per mordere. La sua spada dardeggiò alla luce delle candele. Astrias cominciò uno strillo che si spense quando la testa gli volò via dalle spalle in una pioggia di sangue, con i lineamenti impietriti in una bianca maschera d'orrore. Demetrio trasse una daga e si mosse in avanti pronto a colpire. Come un gatto, Conan ruotò su se stesso e avventò un feroce affondo verso l'inguine dell'inquisitore. Istintivamente Demetrio indietreggiò e così la punta della lama affondò nella sua coscia, scivolò sull'osso e trapassò la carne da una parte all'altra. L'inquisitore si afflosciò su un ginocchio con un gemito di dolore. Conan non si fermò. l'alabarda che Dionos aveva alzato riuscì a proteggergli il cranio dalla lama sibilante del cimmero. La spada troncò di netto il manico, ma deviò leggermente e sfiorò soltanto la testa del prefetto, recidendogli un orecchio. L'accecante rapidità del barbaro paralizzava le guardie. Una buona metà degli uomini sarebbe stata abbattuta prima di avere la possibilità di difendersi, ma il nerboruto postumo, più per fortuna che per abilità, tese le braccia verso il cimmero, immobilizzandogli il braccio armato. La mano sinistra di Conan scattò verso la testa di Postumo, che si ritrasse urlando e portò le mani al foro insanguinato che era quanto gli restava di un occhio. Conan si allontanò con un balzo dalle alabarde brandite attorno a lui e si trovò fuori dal cerchio dei nemici, vicino ad Arus, che si era chinato ad armare la balestra. Un selvaggio calcio al ventre lo fece cadere a terra, con la faccia verde, boccheggiante. Poi il tallone del sandalo di Conan calò pesantemente sulla sua bocca. Lo sventurato urlò fra una rovina di denti spezzati e una schiuma sanguinolenta gli uscì dalle labbra lacerate. E in quell'istante ciascuno rimase impietrito al suo posto da un urlo così orribile da scuotere l'anima che proveniva dalla camera in cui Postumo aveva spinto Promero. Lo scrivano uscì barcollando dalla cortina di velluto e si fermò, scosso da grandi singhiozzi silenziosi. Le lacrime rotolavano dalla sua faccia cinerea e gocciolavano sulle labbra aperte e rilasciate, simili al pianto di un bambino demente. Tutti si fermarono a fissarlo, stupefatti. Conan con la spada grondante, le guardie con le alabarde sollevate. Demetrio, che accovacciato sul pavimento, si sforzava di arrestare il sangue che gli zampillava dalla profonda ferita alla coscia. Dionus, che si teneva l'insanguinato boncone dell'orecchio mozzato, e il piangente Arus, che sputava frammenti di denti rotti. Persino Postumo cessò di gridare e ammiccò con l'occhio rimastogli. Promero entrò nel corridoio barcollando e cadde rigidamente di fronte a loro, prorompendo in un'insopportabile risata acuta da pazzo. Il dio arriva lontano! Disse. Maledettamente lontano! Poi, con una terribile convulsione, si irrigidì e giacque immobile, con una smorfia vacua sul viso rivolto al soffitto buio. È morto! Mormorò Dionus con voce colma di timore e di stupore, dimentico della sua ferita e del barbaro con la spada gocciolante. Si chinò sopra il corpo, poi si raddrizzò e i suoi occhi porcini erano sbarrati. «Non è ferito! In nome di Mitra, che cosa c'è in quella stanza?» Poi l'orrore scese in loro come una raffica di vento ed essi corsero strillando verso la porta d'uscita. Le guardie, lasciate cadere le alabarde, li seguirono pigiandosi in un'unica calca urlante e impazzita e balzarono fuori come pazzi. Li seguivano Arus e il semi-accecato Postumo, che si muoveva goffamente dietro i suoi compagni, squittendo come un maiale scannato e implorandoli di non abbandonarlo. Raggiunse le guardie, che lo spinsero via e lo calpestarono, urlanti di paura. Si trascinò dietro a loro e dietro di lui venne lo zoppicante Demetrio, che si teneva stretta la coscia insanguinata. Guardie, cocchiere, sentinella e ufficiali, feriti o illesi, si riversarono urlando nella strada, dove gli uomini lasciati di guardia alla casa, senza nemmeno chiedere il perché, si unirono alla fuga, contagiati da quel panico collettivo. Conan rimase solo nel grande corridoio, accanto ai tre cadaveri stesi sul pavimento. Il barbaro impugnò la spada più saldamente e avanzò a grandi passi nella camera. Era adorna di ricchi arazzi di seta, cuscini di seta e divani erano sparsi qua e là in una disordinata profusione, e dall'alto di un massiccio paravento dorato un volto fissava il cimmero. Conan guardò meravigliato la fredda, classica bellezza di quei lineamenti di cui non aveva mai visto l'eguale tra i figli dell'uomo. Né debolezza, né pietà, o crudeltà, o gentilezza, nessuna delle altre emozioni umane trasparivano da quei connotati. Avrebbe potuto essere la maschera di un dio, scolpita nel marmo da una mano maestra, se non fosse stato per l'inconfondibile vita che li pervadeva. una vita fredda ed estranea, quale il Cimmero non aveva mai conosciuto, né poteva comprendere. Pensò fugacemente alla magnificenza marmorea del corpo celato dal paravento. Doveva essere perfetto, si disse, se il viso era così sovrumanamente bello. Ma poteva scorgere soltanto la testa finemente modellata che ondeggiava piano al di sopra del bordo, da sinistra a destra. Le labbra piene si schiusero a pronunciare una sola parola, con un tono ricco e vibrante, simile a quello dei campanelli dorati che echeggiano nei templi sperduti tra le giungle del Kitai. Era un linguaggio sconosciuto, dimenticato già prima che nascessero i regni dell'uomo. Ma Conan ne comprese ugualmente il significato. «Vieni!» E il Cimmero andò da lui. Con un balzo disperato e un affilato fendente della spada, la bellissima testa fu spiccata di netto dal busto, toccò il suolo a lato del paravento e rotolò un poco prima di fermarsi. Subito Conan si sentì accapponare la pelle, poiché il paravento tremolò e si scosse nelle convulsioni di ciò che gli stava dietro. Conan aveva visto e udito morire gli uomini a decine, ma giammai aveva udito da un uomo che si agitasse nell'agonia suoni come quelli. Lo schianto di una sferzata, il tonfo sordo di una massa contratta. Il paravento si scosse, oscillò, barcollò, si reclinò in avanti e infine cadde ai suoi piedi con il fragore metallico. Conan guardò sul pavimento e il pieno orrore di ciò che vedeva si avventò su di lui. Fuggì disperatamente e non rallentò la sua folle corsa finché le alte guglie di Numalia non furono svanite nell'alba alle sue spalle. Il pensiero di Set lo tormentava come un incubo, così come quello dei figli di Set che un tempo avevano dominato la terra e che ora dormivano nelle loro caverne tenebrose sotto le nere piramidi. Dietro quel paravento dorato non c'era un corpo umano, bensì le iridescenti, decapitate spire di un gigantesco serpente. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, il dio nell'urna.